Io abito il quartiere, quindi questo tizio lo conosco. E non solo io, ma lo conosci anche Papp per aver lavorato con questo signore durante 10 anni. Quindi, conoscendo un po', diciamo, l'indole della persona, non possiamo del tutto definirla il gesto di un pazzo. Ecco. Firenze ha già avuto nel 2011 un omicidio, esatto, appunto a scopo razziale. Ecco, avete paura che si ritorni quell'atmosfera? Proprio così. La paura è questa, è una fobia quasi, una fobia fra tutti, ma non solo fra i senegalesi, ma fra tutti gli stranieri, perché alla fine si dice, ma chi l'hanno fatto 2011, l'hanno rifatto oggi, potranno farlo. È una cosa che non dà stabilità né morale, non dà stabilità né convivenza pacifico, ecco. Ma questo clima, come dire, è rimasto uguale dal 2011 o è peggiorato negli ultimi anni? A dire la verità, la cosa è stata sanata, perché si può capitare, non doveva capitare, e la gente si è fatta una ragione, ma una volta che la cosa si ripete, allora ritorna in mente il passato, questo è umano, in evidente, e il passato non ti sta, e soprattutto, tutto a caso, ecco, erano sempre sotto dominazione governante di certi partiti, che dà la possibilità a alcune persone di poter comportarsi in una maniera incivile, senza tenere conto che siamo tutti esseri umani, nonostante il colore proveniente. Ecco, quindi mi pare di capire che, insomma, vedete i risultati elettorali della Lega Nord come qualcosa che spinge le persone a fare questi gesti? Stranamente possiamo anche dire questo. Non è detto che tutto è legato a questo, però un accenno c'è, però c'è anche il fatto che abbiamo vissuto questo fatto di Napoli, quando questo signore ha sparato sul pubblico, che lo si chiese nulla, è stato messo in arresto domiciliare. A questo punto tutti possono provare a ammazzare chi non li va, magari per la sua provenienza, la sua religione, le sue scelte. Ecco, la paura c'è. Abbiamo visto anche i fatti di Macerata. Volevo chiedervi se voi, come comunità senegalese, percepite, come dire, il razzismo in Italia. Ascolti, io, i miei figli sono nati qua e sono più di 30 anni che vivo in Italia, quindi vi posso assicurare che ho sempre rifiutato di dire che l'italiano è razzista. Purtroppo, ahimè, a me sembra che questa fight è una cosa praticamente programmata e instaurata dai governi che da oggi insiederanno in questo territorio. E questo è un peccato, perché siamo tutti cittadini del mondo e non va. Quando si ha l'instigazione data del governo a un popolo che non chiede che vivere in pace con tutti. È un'instigazione alla violenza, all'odio e al razzismo. Ieri, durante la protesta, qualcuno ha anche ribaltato delle fioriere. Insomma, è un gesto che sicuramente è meno grave dell'uccisione di una persona, però il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha detto di non accettare questa cosa. Dario Nardella ha ragione, ma bisogna vedere anche l'impatto. Cioè, di solito, ecco, la persona che risponde a una provocazione è sempre vista come la persona che fa del male, ma non vedono perché questa reazione. La reazione di questa gente è dovuta per la rabbia, è guidata dalla rabbia, dalla disperazione. Hanno bisogno di un interlocutore, di qualcuno che sta con loro, che parla e che gli fa capire che cosa sta succedendo, che Firenze, una bella città, una città conosciuta nel mondo, una città d'arte, una città che tutti ci invidiano, deve diventare un terreno di fare da te. Sindaco, vi ha contattati per esprimere la solidarietà? Per ora ufficialmente no. Voi siete in presidio oggi pomeriggio, cosa chiedete? Ma il presidio che chiediamo è che basta uccidere la gente, basta uccidere la gente. Qual è il problema? Non vogliono i stranieri, non vogliono questi sbarchi, ma che se la prendono con Berlusconi che l'ha firmato con Gaddafi? Che se la prendono con il destro che l'ha firmato? Che se la prendono con chi l'ha firmato 4 anni fa anche, pur di pagare il debito italiano? Ma che cavolo c'entriamo noi? Questi sbarchi l'hanno creato loro, i governi italiani, e tutti noi sappiamo qual è la realtà, che noi dobbiamo pagare sulla pelle nostra, perché un governo ha pagato per pagare i suoi debiti all'Unione Europea, oppure per un altro governo prima di lui ha fatto delle cavolate facendo delle firme e le cose non sono state rispettate. Non ci siamo, sinceramente siamo stufi, non possiamo pagare per la vita per gli altri, non esiste. Chiediamo che la considerazione, il rispetto sia reciproco, e vi posso assicurare di una cosa: in tutti gli stranieri, senza togliere niente a nessuno, i senegalesi è la comunità la più pacifica, è la comunità che non dà nessun problema. problema. L'unico loro problema è che non vanno a lavorare, fanno compra, girano, possono dare noia. Questo sì, sono la prima a dirle che non mi piace, non mi fa fierta, ma non per questo dobbiamo essere ammazzati tutti i giorni.